Io ho avuto un giocatore che è stato dichiarato prima positivo, poi negativo, ha ripreso leggermente a rifare l'allenamento da casa e è ritornato positivo. Potrebbe dare problemi al cuore. I giocatori sono macchine di Formula 1, devono essere al 100% idonei. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi piace un po' in questi giorni sentir parlare solo ed esclusivamente di calcio. È logico che il calcio porta tanti soldi, mercato e quant'altro, però esistono anche tutti gli altri sport. Salute prima di tutto, però poi quando si cominciano a riaprire determinate attività, una di queste prime deve essere lo sport professionistico. Io non mi sono mai permesso, non c'è un mio virgolettato, non c'è una mia frase, di dire che questa è una scelta giusta o sbagliata, perché spetta a loro. Ho solo detto che al momento solo il calcio è stato sottolineato a una sua specificità, per aspetti economici soprattutto, per aspetti sociali, per aspetti sportivi, ritiene che la stagione del calendario si debba completare. Come, dove e quando spetta a loro, con tutto quello che comporta oneri e onori di questa decisione. Punto. I medici devono prendersi le loro responsabilità e capire se è il caso di far riniziare o meno. I giocatori sono macchine di Formula 1, vanno spinti al massimo. Si potranno spingere al massimo questi ragazzi? E basterà un mese di preparazione per poi andare a giocare 3 partite a settimana? Buon pomeriggio a tutti, i temi sono questi. Abbiamo risentito Federica Pellegrini, abbiamo sentito la nuova posizione di Malagò, presidente del CONI, abbiamo sentito Ranieri, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, grandi protagonisti in questo strano momento. Lo sappiamo, non sono tanto giocatori allenatori e sportivi in genere, ma i dirigenti dello sport. Il tema centrale è quello della ripresa della vita, non solo sociale ed economica, ma anche sportiva, che ricomprende il fronte sociale ed economico. Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao a entrambi e saluto e ringrazio Massimo Cellino, presidente del Brescia. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno. Posizioni che sono queste anche oggi Gravina ha ripetuto, stiamo... Scusa Carlo. Sì, faccio un'invasione di campo, penso che il presidente si unirà, ricordo, mi sembra giusto cominciare puntando Franco Lauro, avremmo fatto più tardi la puntata, però certo, insomma, avremmo visto fatto, che questa fatto veramente una persona si dice sempre in questi casi, e in questi casi è una persona con un approccio rilassato, sereno, mai polemico, sorridente, le volte che lo incontravo anche recentemente negli stadi. Persona e collega, purtroppo ti sento male, prova a ripristinare il collegamento, ma questo certamente lo avremmo ricordato alla fine del nostro programma, ma collega e persona di grande eleganza, questa è la prima parola caro che amico. Mi viene in mente, caro amico, anche suo presidente. Sì, l'ho adorato. Senta, andiamo sui temi di stretta attualità. Lei è uno dei paladini del finiamola qui, il suo pensiero è questo, in controtendenza rispetto a UEFA, FIFA, ma anche Federcalcio, conferma? No, la FIFA dice finiamola qui, il CONI dice finiamola qui, e la Federcalcio mi ricorda un po' il nostro governo, che crea un sacco di commissioni, di medici, di specialisti, di analisti, ma il calcio è un'azienda, la Confindustria del calcio, l'interesse e le decisioni sul calcio devono prendere il presidente, i proprietari del club e i calciatori. Tutto il resto è politica e burocrazia. Oggi stiamo vivendo una tragedia sulla quale forse ci stiamo ancora scherzando tutti. Siccome io vivo a Brescia e me, e ho visto cos'è il Covid-19, non vi auguro a voi di vedere quello che ho visto io, perché quando i miei colleghi parlano così, giustamente, e io sono stato in Sardegna, vi posso dire che la Sardegna è un paradiso felice. Non ti rendi conto di cosa sia questa malattia, questa disgrazia, se non la vivi come l'abbiamo vissuta noi a Brescia. Ecco perché mi arrabbio. A me di andare in Serie B non me ne frega niente, ci vado domani mattina. Il problema è che in questo contesto pensare o sentire che i medici si uniscano e qualche presidente dica capisco io del virus, lo uccido io, mi fa piacere che le dicano, ma stiamo scherzando. Io dico, nascondersi dietro ai problemi economici, l'azienda a caso ha problemi come tutte, ma a differenza delle altre, lui che fa economia su questo giornale, che lo leggo da quando sono bambino, sono 24 ore, e sono onorato di partecipare alla vostra trasmissione per questo motivo, perché vi rispetto come professionisti, ricordatevi che forse l'azienda a caso, in tutto il sistema mondiale, d'accordo, è l'unica in grado di risollevarsi, gestirsi e ripartire in autonomia, senza chiedere aiuto al governo e senza pesare su nessuno. Il fatto che noi oggi ci nascondiamo dietro consigli, commissioni, di burocrati, di persone che non sono direttamente coinvolti nell'azienda a caso, nella gestione, è sbagliato. Io dico semplicemente che Dio mi ascolti, spero e mi auguro che si possa ripartire il nostro campionato agosto-settembre, ma io me lo auguro, ma non perché non voglio, perché sono realista, perché c'è gente che a Roma passeggia, io vedo Claudio in televisione con la cravatta, la giacca, lo invidio un po', perché vuol dire che sta vivendo da uomo. Io sono chiuso a casa da una quarantena all'altra, ragazzi, e non so come fare a farmi quattro passi, ho paura di uscire in giardino, te lo dico sinceramente. Perciò, sì, sì. Noi non siamo molto lontani, è una regioni. Condizione condivisa. Non siamo molto lontani, siamo a Milano e anche noi non, insomma, se siamo sommersi a Milano, giusto? Sì, a Milano. Sì. Sommersi dagli stessi problemi. Ma molto bene, molto bene, ma però io Carlo, se posso dire una cosa sulla situazione del sistema industriale calcio, il presidente Cellino ha perfettamente ragione. Oggi mettevo insieme quattro dati, insomma, l'anno scorso, e sono dati ufficiali, ha bruciato quasi un milione di euro al giorno in passivi, negli ultimi 10 anni ha bruciato oltre 2 miliardi, ha squilibri pazzeschi. Mi permettete che vi spieghi come funziona la squadra di calcio? Perché noi complichiamo la vita. Sono società per azioni cooperative, costituite a conto economico del Stato patrimoniale, giusto? Quando lei ha tutti i conti economici del 90% delle società di calcio che sono negativi e vengono colmati con le sopravvenienze sulla cessione dei cespiti, che sono i calciatori, lei capisce già che paghiamo di stipendi più di quanto incassiamo di conto economico. E li saturiamo con le sessioni dei calciatori. Già ha letto cos'è il calcio, d'accordo? In questo momento, d'accordo, che non si gioca a causa di forza maggiore, giustamente anche le televisioni avranno subito dei danni. Noi abbiamo interesse che le televisioni sopravvivano. Sì, abbiamo interesse noi nel calcio continuo. Sì, i calciatori vengono pagati per giocare partite, non per allenarsi, mi segue. È una disgrazia, è una calamità naturale. Se siamo fermi, i calciatori rinunceranno perché non ci sono i soldi a qualche stipendio, le televisioni faranno lo sconto proporzionale, quello che perdiamo da una parte si recupera dall'altra e si parte l'anno prossimo facendo da bravi, cercando di dare ai giocatori un po' di tonicità muscolare, perché questi stanno scherzando col fuoco. Ma come cavolo fa a giocare giugno e luglio quando i bilanci chiudono il 30 giugno e gli stipendi scadono il 30 giugno dei calciatori contratti? Come fa lei per ricominciare il campionato prossimo a settembre senza dare un giorno di reale vacanze ai calciatori? Ma lei lo sa cosa succede? Si strappano tutti, non fanno due corse, sono tutti in fisioterapia, si strappano. I giocatori, qualcuno l'ha detto prima nella trasmissione, sono delle Ferrari. Sì, sono delle macchine di Formula 1 e hanno bisogno di una preparazione, di un controllo esasperato. Star fermi 2-3 mesi, ragazzi, è una cosa che non abbiamo mai provato a far prima, non sappiamo neppure di cosa stiamo parlando. Questo certamente. Però presidente, dicono che Cellino dice queste cose perché è ultimo in classifica. Io vi firmo qui e ve lo dico pubblicamente, firmo che se serve che Brescia retroceda per salvare il calcio, io accetto la retrocessione, non faccio causa a nessuno e ci vado a testa alta in Serie B, mi creda, ma non mi voglio tenere in Serie A immeritatamente per le morti di Brescia. Non permetto che mi si accusi una roba del genere. Presidente, lei dicendo questa cosa fa un passo importante e quindi sgomberiamo il campo dal tema che i presidenti, lei e altri, parlino per interessi privati di natura sportiva, però c'è anche qualche suo collega, qualche dirigente. Parlo di me, esatto. Parlo per me. Però c'è anche qualche suo collega, anche qualche dirigente che ha decenni alle spalle di calcio ad altissimo livello. Noi abbiamo ospitato Galliani, che dice che il sistema non reggerebbe se si dovesse fermare già adesso, e non reggerebbe dal punto di vista economico, che è una lettura diversa da quella che ci ha dato lei prima. Adriano è il mio maestro, d'accordo? Perciò io ho imparato quasi tutto da lui e dal Milan, che è stata la prima società di calcio che ha fatto azienda calcio, d'accordo? Perciò, però Adriano, che è mio fratello maggiore, dice una cosa giustamente, e lui c'ha 20 punti più col mondo, si dice. Io mi metto al posto suo, d'accordo? E dico, porca puttana, sono 20 punti più, ho comprato il mondo, non vedo l'ora di salire in B e mi vede questo cavolo di coronavirus. Cosa gli posso dire io, Adriano? Fai causa al virus, hai ragione, figlio mio. Vuoi dire al mio posto di Serie B? Ci vado io al posto tuo. Però, Adriano, parliamoci chiaramente, non siamo più ai tempi di quando si arrivava il Consiglio dei Ministri e faceva 24 squadre in Serie B e 20 in Serie A, 6 promozioni. Non si manda più la Juventus su dandogli 30 punti di penalizzazione, nascondendo le marachelle che si sono state fatte nel passato. Io mi orgoglio, sono orgoglioso di non essere stato coinvolto, neppure per sbaglio, perché se vuoi essere dalla parte della ragione nel calcio e tutto il mondo, devi avere le carte in regola. D'accordo? Adriano è il più bravo, e l'ho capito. Adriano Galliani è il signore del Vicenza, che hanno 20 punti di vantaggio, partiranno l'anno prossimo con 20 punti di bonus. Se si possono dare punti di penalizzazione, si danno anche i bonus, o non esiste. Il signor Vigorito, giustamente a 20 punti in più in Serie B, è una tragedia per lui, glielo giuro, l'ho capito. Gli daranno 20 punti di bonus. Cosa facciamo? La causa del coronavirus è colpa sua, non nostra. Sì. Io le giuro. Poi che però, non vorrei essere secondo in classifica per parlare così. Poi però si tratta anche di capire se consolidiamo la situazione attuale e quindi ricominciamo con questi campionati, oppure... Allora posso parlare da persona pratica io. Ci sono due soluzioni. O lei cristallizza i campionati come sono adesso, sto seguendo, e chi è i tre retrocedono e tre vengono promossi, così, d'accordo? Fa questo qui, però in questa maniera cosa succede? Le spiego subito una cosa. Lei consolida i campionati e le classifiche, ok? A quel punto lei deve pagare anche i stipendi ai calciatori, perché ha consolidato il campionato. A quel punto lei deve pagare anche i premi ai calciatori, perché hanno consolidato una classifica. Parliamo di diritto civile, non di cazzate, d'accordo? È una soluzione, ok? Però i miei calciatori, non Massimo Cellini, ok? I miei calciatori sono d'accordo a retrocedere per giocarsi le ultime 13 partite del campionato e provare a salvarsi. I miei calciatori, come retrocedono, guadagnano il 50% in meno, perché io ho i contratti col 50% di stipendi in meno in Serie B. Perciò non è una cosa tragedia economica per me, sto parlando sempre per me. Seconda cosa. La soluzione unica che abbiamo già visto. Cosa ha fatto le Olimpiadi? Cosa hanno fatto? Uno spostato di un anno le Olimpiadi. Giocheranno le Olimpiadi del 1920 e del 1921. Cosa ha fatto la UEFA per il campionato europeo? L'ha spostato di un anno. D'accordo? Uh-huh. Ecco, e hanno annullato questo. Riparte l'anno prossimo. Mi perdoni, ma se non fosse stata l'unica soluzione, l'avrebbero mai fatta loro, si sarebbero sacrificati così per i campionati del club. Signori, intanto giochiamo per il pubblico, primo, per gli spettatori. Giocare a porte chiuse è la bestemmia peggiore del mondo. Voi non siete mai stati in Inghilterra, non conoscete il calcio inglese, mai si giocherà a porte chiuse in Inghilterra e non si deve fare mai con l'Italia. Perché o giochiamo per gli spettatori o giochiamo per giocare al casino. Sono due cose completamente diverse. Okay. Ci sono le televisioni, ci sono anche gli spettatori alle televisioni. Piero, vuoi dire una cosa? Senta, il calcio è allo stadio. Abbiamo fatto salti mortali, vogliamo fare l'Italia di nuovo, stiamo investendo qualcosa negli stadi. Vogliamo la gente allo stadio, adesso di Putinato non se ne sbatte più un bicchiere. Ma quello certamente rivogliamo tutte le sue componenti nel calcio. Gente allo stadio credo sia un processo lungo e più lungo rispetto alla ripresa delle varie attività. No, mi perdoni, la prima componente è lo spettatore allo stadio. se a me non mi pagano un soldo di televisione, giochiamo con il casino allo stadio, sono più felice per tutta la vita. Io spendiamo meno soldi e ci divertiamo di più. Quasi abbiamo snaturato uno sport e continuiamo con le moviole, con la VAR, con le nicchiate. Stiamo rovinando lo sport più bello del mondo. Perché? Perché mancano i dirigenti di calcio. Io sono 30 anni che faccio questo mestiere, d'accordo? E ho cercato di farlo da imprenditore del calcio. E sempre di più mi confronto con dei miei colleghi, purtroppo, che sono degli ottimi dirigenti, ma non sono dirigenti di calcio. Sono pochissimi quelli sopravvissuti. Io lo dico con sincera verità. Sì. Perciò io mi prendo questa responsabilità di dire le cose e voglio dire le cose come stanno. I conti economici delle società, ma guardate, non c'è una società che chiude un conto economico gestionale in attivo. Ma di cosa parlate, ragazzi? Ma di cosa parlate? 100 milioni di giocatori, 150... Ma sono tutti coriandoli, signori. Ma voi avete un giornale che parla di economia seria? Ma leggete i bilanci. Ma come cavolo si fa a avere i bilanci così e parlare? Ma approfittiamo di questo coronavirus per mettere a posto le società e far tutti i conti come li fanno nelle società serie. Sì. E mettiamo le infatti, è una bella dieta dimagrante. Non so quante poi alla fine resteranno, sembra di giocare ad Highlander. Pierluigi, volevo sentire la tua voce. Le tue considerazioni. Apprezzo anche il discorso dell'impegno a non fare eventualmente nessuna azione legale. Mi sembra un discorso assolutamente in buona fede per il bene del calcio. Quello che è certo però è che l'aspetto economico, che non piace a nessuno, perché noi tutti credo piace l'aspetto romantico del calcio, comunque ha un peso. Cioè, le Olimpiadi sono state spostate di un anno, ma quelle successive comunque saranno nel 2024. Cioè, comunque mi deve perdonare lei. Io sto parlando da imprenditore. I bilanci delle società sono come i bilanci delle aziende. Noi abbiamo una perdita di un terzo degli incassi di televisione, di sponsor, di spettatori dello Stato. È un terzo che si perde, d'accordo? Un terzo. Un terzo che dobbiamo rimborsare le televisioni. Se saranno così bravi, troviamo una transazione, si determinerà qualcosa. Agli spettatori dobbiamo dare la possibilità di essere rimborsati quello che ha pagato per gli abbonamenti, perché una soluzione bisogna trovarla, e purtroppo noi incassiamo i soldi per pagare gli stipendi, non per portarci, cambiarci le vetture, mi segue. Se i soldi non li incassiamo, i calciatori di Serie A, molti di questi, se si comprano un Lamborghini in meno, non succede nulla. E mi creda, i calciatori sono altamente disponibili. L'importante è che tu devi andare ai calciatori e dire le cose come stanno, dire ricominciamo agosto nuovo campionato, cosa ci leviamo di quest'anno che siamo bagnati tutti? Ecco, oggi non puoi neppure andare al calciatore e dire no guarda, ti levo due stipendi e poi ti devi fare in 3 settimane 25 partite perché devo finire il campionato. Così si chiama truffa, non è trattare con i dipendenti. Ma i calciatori quindi hanno ragione i calciatori con la posizione che hanno preso, in questo caso l'asso calciatori. Allora i calciatori sono persone per bene, i miei e tutti, il 90%, glielo dico io e garantisco io. A questi ragazzi però, se vai gli dici, senti, lei di uno stipendio 1,5, 2,25, rigiochiamo, il calciatore gli dice, intanto, ricominciamo l'anno prossimo, continua a essere un calciatore, si rifarà il campionato, prima cosa. Seconda cosa, giochiamo quest'anno, se giochiamo e finiamo il campionato, ai calciatori gli spetta il 100% di stipendio. Questo è diritto, non commedia. Se non si gioca, i calciatori saranno, per causa di forza maggiore, decurtati certi stipendi, perché non si è disputato campionato. E loro, d'accordo, di fronte a questa evenienza, sono i primi a mettersi le mani in tasca. Ve lo garantisce Massimo Cellino. Però bisogna garantire che si rigiochi l'anno prossimo e che rimangano calciatori. Non puoi dirglielo in un momento dove un giorno diciamo è finito il campionato, levate il vostro stipendio, il giorno dopo riprendiamo a metà maggio, il giorno dopo forse rigiochiamo le coppe. Allora c'è qualche presidente che vuol farne vantaggio di queste situazioni. Date. E nello stesso tempo qualche giocatore altrettanto. Presidente, io devo, esigenze tecniche, mandare 40 secondi di stacco, ma poi torniamo ovviamente su questi argomenti, perché c'è un'altra posizione che l'altro giorno ha espresso Galliani qui a questi microfoni, cioè non possiamo riprendere a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, riprendiamo a ottobre per dire, e finiamo però questo campionato, questa stagione, prendendo i soldi delle televisioni. Questo è un altro punto, torniamo tra un attimo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Presidente, su quanto ho detto prima, ricapitolo, pensiero di Galliani. Ho capito. Riprendiamo da dove, riprendiamo quando sarà possibile, allora, ma da questo punto. Adriano Galliani, lo conosco, lo rispetto, lo stimo, lo ammiro. Capisco il suo senso di frustrazione devastante. Non siamo più ragazzini, abbiamo oltre 60 anni tutti. Andare quest'anno in Serie B vuol dire andarci... Adesso farsi un altro anno di Serie C è una tragedia per Adriano Galliani, per Vicenza, per il Benevento. Io li capisco, glielo giuro, non posso non capirli. Io sarei incazzato nero al posto loro. Però se pensi al sistema calcio, e passiamo ora tra uomini, in Serie A, d'accordo? Se ricomincia il campionato, se si resetta il campionato, perché questo è un campionato da resettare, si riparte dalla griglia di partenza originale. Ci sono delle società che sono penalizzate. In Serie A, per esempio, sarebbe penalizzato Claudio Lotito, ingiustamente, dico, però lo sarebbe, perché lui oggi si trova in Coppa dei Campioni secondo. Se si ripartisse la griglia di partenza l'anno scorso, si ritrova nell'Europa League e non in Coppa dei Campioni. Sì. E sportivamente è un'ingiustizia, sono il primo io a dirlo, però è uno. In Serie B c'è Vigorito che ha 20 punti di vantaggio ed è un'ingiustizia, ma gli altri sono tutti non feriti neppure, capito? Non gli cambia nulla. In Serie C c'ha il Monza e il Vicenza che hanno un grosso distacco dalle altre, forse la Regina c'ha qualcosa ma non eccessivamente, le altre sono tutte ben felici di ricominciare giustamente un campionato dall'inizio, d'accordo? Perciò parliamo di 100 squadre, 60 in C, 20 in B e 20 in A, delle quali l'ingiustizia avrebbe fatta alla Lazio, al Benevento, al Monza e al Vicenza, ma ingiustizia sportiva è devastante, d'accordo? Io cosa le posso dire? Queste quattro squadre hanno un'ingiustizia data dal coronavirus. A queste squadre o si trova una soluzione, che facciano una soluzione, che due vogliono retrocedere volontariamente, vanno su il Vicenza e il Monza, se no gli si danno 20 punti a testa di vantaggio e gli si iscrivono al campionato, si riparte a settembre e non roviniamo il campionato prossimo insieme a questo, perché se continuiamo così noi ci portiamo questo campionato e quello prossimo. Poi scusatemi, fatemi parlare perché oggi sono un vulcano. Sapete che i bilanci chiudono il 30 giugno, giusto, delle sportive di calcio? Sì. È giusto? Allora, bilanci. È giusto. Campagne e trasferimenti, quando squadre contano il giocatore? 30 giugno, a livello mondiale, d'accordo? Come fa lei? Obblighi di riscatto, diritti di riscatto, pagamenti, trasferimenti ai calciatori, bilanci. Come fa lei a ipotizzare che questo campionato possa giocarsi dopo il 30 giugno? E i calciatori sono stati venduti e quelli comprati, per chi giocano? Chi li paga? Sapete che abbiamo 700 milioni di euro a disposizione noi, finanziaria, come sistema calcio in Serie A, lo sapete voi, garantito dal sistema finanziario. Su campagna trasferimenti di un quadriennio, obblighi di riscatto che devono esercitarsi a luglio per 270 milioni di euro, affetti, anticipi di diritti televisivi che probabilmente non arriveranno, ci sarà da beneficiare perché arrivino. C'è gente che ha avuto anche l'anticipo del paracadute già. Ragazzi miei, non avete capito, succede un effetto domino, salta al banco. Io sono un imprenditore, quando parlo così la gente mi prende male, perché sei cellino. Ecco, mia moglie, allora siamo in Serie A, io la mia moglie, a me di stare in Serie A, non è stato bravo. Io sto parlando per il sistema calcio, io ho inventato i paracaduti, io quando ero in Serie A 20 anni fa e non ne ho mai preso uno, mi sta seguendo. Perciò io sono pronto a retrocedere al calcio, lo firmo, mi prendo le mie responsabilità a testa alta, me ne vado meritatamente, le ripeto, in Serie B, perché ho fatto troppe cagate quest'anno, ho fatto degli errori e lo faccio, se servisse a quello, a mettere le cose a posto, lo faccio, ma è l'unico modo per salvare il calcio. Lei conferma, che comunque, se dicessero riprendiamo a giugno, non schiererebbe la squadra? No, io dopo il 30 giugno non so i contratti in scadenza, e non mi dicano con decreti o minchiate varie che sorridendo, o con le commissioni che vanno a formare, che spostano i bilanci di 30 giorni lì, va lì, per... ma lei non ha capito niente. Ma di cosa stanno parlando? Voglio fare risorgere la luna e far venire il sole a posto della luna? Se vi sente, questi qua sono capaci di dire le coglionerie più grosse. No, dico, 700 milioni a 30 di giugno bisogna rigarantire. Chi li garantisce? Cosa diciamo alle banche? Aspettiamo 60 giorni, aspettiamo 90 giorni, facciamo un pool, facciamoci prestare i soldi dallo Stato. Vergogna! Mi segue? La seguo, Presidente. A proposito dello Stato, posso chiedere al Presidente Cellino una cosa? Allora, ha detto lui prima all'inizio, il calcio è un'industria che non avrà bisogno di chiedere soldi allo Stato, però ad esempio non soldi, ma facilitazioni il calcio le sta chiedendo, e fin qui mi pare di aver capito che la risposta sia negativa. La possibilità di lavorare ad esempio col settore del betting, di avere un 1% sulla raccolta delle scommesse. Amico mio, volevo sapere cosa pensavo. Perché mai ho guardato la televisione e il telegiornale in questo periodo. Ma come si fa in questo momento? Andare da un ministro, mi perdoni, che non sa manco se uno che ha mai giocato a pallone è gestito una squadra di calcio, e chiedere in questo momento, mi sembra, di far venire due extracomunitari o di darci le scommesse del Betis. E lui, e io mi devo mortificare, e lui risponde dicendo: no, è un principio di 5 Stelle, è un elettorato. Senta, allora le dico una cosa, io politica non ne faccio, mancavo 6 anni dall'Italia, d'accordo, ero in Inghilterra, e non seguivo il calcio italiano, nemmeno i telegiornali, nulla. Rientro e vedo che ci sono i 5 Stelle, che mi sono sempre stati simpatici, e fanno una campagna elettorale basata, è fondamentale, su un aereo, non so se fosse vero o meno, che aveva comprato l'ex primo ministro Renzi, d'accordo? E vedevo questa campagna elettorale e dico, cazzo, guarda, cazzo. Poi vedo a un certo punto che dicono i 5 Stelle con Salvini, la Lega. Io sono sardo, non posso essere leghista, giusto? Però Salvini mi era simpatico, ho detto, pensa un po', questo uomo mi sta piacendo. E vedo che fanno governo 5 Stelle e Salvini. E sono contento, dico, sono contento di essere tornato in Italia. Poi oggi mi trovo, mi perdono, con un governo dove c'è Renzi dentro, che mi è simpatico anche lui, stia attento, mi piace Renzi. Però mi sono chiesto, se un ministro dello sport, d'accordo, se non c'entra un cavolo col calcio, dello sport è un'altra cosa, il calcio è un business, è lo spettacolo, d'accordo, si permette di dire che non rilascia il betting, d'accordo, perché è un'opzione di principio 5 Stelle, allora mi chiedo io, ma come cavolo ha fatto 5 Stelle a fare il governo con Renzi? Di chi cazzo di principi parlano? Io non gliele posso chiedere a certi politici, perdoni, che sono incoerenti. L'elemosina non ne abbiamo bisogno. Se possiamo, li dobbiamo aiutare nel calcio al governo. Non abbiamo bisogno. Il betting è sbagliato in Italia, che non si possa scommettere, perché in Inghilterra il 90% dei soldi a pubblicità arrivano dal betting. Io all'inizio avevo 32 red nella maglietta, d'accordo? Il betting. Perché vive di betting in Inghilterra e sponsorizzano il calcio perché gli restituiscono qualcosa. In Francia gli danno il 3% degli incassi delle scommesse a squadre di calcio, in Italia non ti fanno incassare i soldi a bruciare del betting e non ti danno nemmeno la percentuale sulle scommesse, e devi chiederlo come cortesia in un momento come questo a un ministro, mi scusi tanto, che parla di coerenza. Posso dire una cosa? Ma parliamo di cose serie, smettiamo di farci ridere dietro, per favore. Ah. Presidente, io la ringrazio, devo mandare la borsa, che qui siamo un po' tutti molto interessati. Come sta andando la borsa? Adesso lo scopriamo subito con le informazioni dei mercati finanziari. Intanto la ringrazio, ci risentiamo presto, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione non solo per rilassarci un attimo dopo... dopo l'incontenibile Massimo Ciandini. Mamma mia. No, facciamo una somma, che è un capoano. Mi sembra che ci sia una disponibilità a non fare causa, però sono un punto però, di vista, un punto fa, di vista causa molto... per cosa? Lui dice non faccio causa, però rimango in Serie A perché cristallizziamo tutto. Sì, sì, no, insomma, infatti, ma io quello che credo di tutta questa vicenda è che tutti i ragionamenti che sono fatti per il bene del gioco, soprattutto per la tutela della salute dei giocatori, il discorso che faceva Ranieri, per esempio, che abbiamo ascoltato prima, è assolutamente condivisibile, è il punto di partenza di qualsiasi settore della vita pubblica, non solo dello sport, ma di qualsiasi altra cosa. Però credo che sia comunque doveroso provare a delineare degli scenari e delle possibilità di ripartenza. Ecco, da questo punto di vista io continuo a vedere, a parte qualche eccezione, una evidenza, non so che cosa ne pensa Giovanni, fra presidenti che comunque sono a prioristicamente pronti a tutto pur di giocare, che anzi si diventano virologi, e presidenti che invece al contrario fanno l'esatto, appunto l'esatto contrario, e poi alla fine vai a vedere quasi sempre c'è un tema di classifica. Non lo so, io penso che si debba provare, poi la decisione definitiva secondo me spetta al governo, spetta alla scienza, perché certo, nessuno potrà dirci, e non deve essere né Claudio Ranieri, né Cellino, né Lotito, né Agnelli, né, non lo so, scegliete voi a decidere se si ricomincia, ma il mondo della comunità scientifica. Però insomma, non lo so, a me sembra che ci si debba almeno provare. Si debba provare almeno, che uno, che uno scenario sia da ipotizzare, Giovanni. Sì, direi di sì. Sì, ma io credo che Cellino ha portato anche delle argomentazioni solide a sostegno della sua parere, e tra l'altro dal punto di vista e dalla visuale di un imprenditore, che quindi va assolutamente rispettato, ha detto anche una cosa che mi ha colpito molto, e cioè io mi aspettavo che Cellino avesse una posizione molto netta negativa nei confronti di quanto stanno dicendo i calciatori, invece lui ci ha raccontato una realtà diversa. Resta che poi alla fine decideranno gli scienziati e deciderà il governo, perché questo è il punto. La differenza su cui anche noi ci siamo battuti in questi giorni per cercare di far capire la differenza che c'è tra un semplice passatempo e una filiera economica è che non si può dividere il mondo in buoni e cattivi, buoni quelli che vogliono fermare subito e cattivi quelli che vogliono andare avanti immaginando che ci siano delle possibilità di evitare danni superiori a quelli che già ci sono. Questo io credo, poi il parere di Cellino chiaramente va accolto, anche perché su alcuni temi che lui ha toccato, al di là delle parole, bisognerà entrare in maniera concreta. Per dire a un club che può giocare dopo il 30 giugno, lui faceva il caso, chiudono i bilanci, ci sono 700 milioni di anticipi che andranno garantiti, tu trovi il modo concreto di farlo, oppure avrà ragione l'imprenditore che ti dice che non ha nessuna possibilità di scendere in campo il primo luglio per questa stagione. E quindi tutto dovrà poi essere legato da misure di governo, in questo caso, e di governo del calcio, che in questo momento, e siamo al 15 aprile, nel concreto non abbiamo visto. Sì. Ma insomma, dovranno mettersi d'accordo anche sulla cornice regolamentare. Fatemi salutare Luca Telese. Ciao Luca. Ciao Luca. Non potevamo nel giorno di Cellino non convocare Luca Telese, che tra l'altro oggi nelle librerie che sono aperte, nella regione in cui sono aperte, nell'Italia libera, nell'Italia fa il culo i chiudi tuttisti che sono fusi. Chiudi tutto a casa, stiamo a casa. Allora ricordo così sommariamente: un terzo degli italiani circa lavora tutti i giorni perché assolve servizi essenziali, sono postini, sono addetti delle pulizie, nettezze urbane, rete telefonica. Io ancora non ho capito, siccome i giorni che stanno facendo feroci, come può esserci questa doppia morale per cui abbiamo gli impantofolati, i rantrier, i garantiti che dicono state a casa, gli inseguimenti col drone, e gli altri che sono degli imbecilli. Cioè è ovvio che dovevamo ridurre il contagio, ovvio che dovevamo allentare la pressione sugli ospedali, però l'idea che si rischi la vita è offensiva per quel 30% degli italiani che lavorano tutti i giorni e per quell'altro 30% che non può lavorare per ordinanze di legge ma vorrebbe farlo. Senti, ma io ti avevo chiamato per parlare del Cagliari invece. Vai. No, vuoi parlare? Vai. Ma dicevo, siamo nelle librerie. La prima cosa. Sì. Come ho passato per scrivere Cuori Oscuro, ho passato lungo tempo nelle meroteche. Mi sono seguito insieme col cammino di questo biennio incredibile che è per il calcio e per l'Italia il 69-70, la storia del virus Mao, così lo chiamarono, e che si chiamava virus Hong Kong 68, non era un mondo globalizzato, ci misurano per arrivare, non chiusero nulla, andarono a letto 15 milioni di italiani prima che arrivasse il vaccino, nel senso che era già pronto ma ci mise un po' ad arrivare, e morirono 5.000 persone. L'Italia non si fermò un attimo, e questo ha un rapporto con quella storia che racconto, perché era un'Italia di persone, pensa Riva, Nicolai, Domenghini, sono giocatori nati Reginato, Albertosi fra il 38 e il 46, il più giovane era del 46, ed era gente che era nata sotto le bombe della guerra, forse con una mentalità più combattiva di tanti che oggi parlano. Senti, dicevo che nelle librerie oggi aperte c'è Cuore Rosso Blu, che appunto è scritto, riflettevo sul fatto che al Cagliari piacciono le cifre tonde, nascita nel 2020, festeggi 100 anni, scudetto nel 1970, quest'anno stava anche andando bene, volendo. Stava andando bene, anche se non dobbiamo nascondere che ci fu un crollo pazzesco dopo la trasferta di Lecce, ma quella squadra è una squadra un po' dei miracoli, voi siete esperti anche più di me. Perché la cosa incredibile, rivedendo quel senno in poi, era considerata una squadra di scarti. Io sono rimasto incredulo quando, leggendo le cronache dell'epoca del Gallia del 1968, ho appreso che Albertosi, che era stato portiere della nazionale e ritornerà portiere della nazionale in Messico, veniva considerato anziano perché aveva 31 anni dalla Fiorentina, che scommesse su Superchi e finì a Cagliari. Gori, Domenghini e Poli furono, come dire, la merce di scambio più soldi della vendita clamorosa di quel mercato, quando l'Inter comprò Boninsegna, e sembravano, come dire, un'aggiunta, no? L'aggiunta che dà il macellaio. Furono fondamentali anche dal punto di vista tattico, soprattutto Domenghini nella squadra dello scudetto che riforniva di cross Riva, ma anche nel ruolo di Gori, Bobo Gori, che divenne forse uno dei primi veri falsi nueve della storia italiana. Sì. Era un Cagliari pieno di invenzioni tattiche, perché scoprì. Beh, un po' come questo, perché noi ne abbiamo a lungo parlato durante i tempi normali, non questi, cioè quando si giocava a pallone, era un po' il pensiero di tutti noi, cioè non particolarmente sorprendente l'andamento del Cagliari, perché da tutti noi. Io mi ricordo nella griglia, Giovanni, che avevi fatto tu, correggimi se sbaglio, il gioco di inizio stagione lo mettevi in alto. Sta lì alle spalle in quella che fu la nostra redazione. Esatto. No, però sì, è vero. È vero, anche perché insomma il presidente Giulini aveva costruito per questi 100 anni una squadra che probabilmente in testa aveva l'idea di poter arrivare all'Europa. Poi il calcio è fatto strano. C'è quella partita con la Lazio, c'è un campionato che gira, Lecce, c'è un ambiente che pian piano si deteriora, Lecce, c'è Lecce, quindi è chiaro che parlare oggi della stagione del Cagliari significa probabilmente darle un voto più basso di quello che abbiamo immaginato per tante settimane. Resta che in questo calcio, in cui il Cagliari non vincerà mai più lo scudetto, comunque sia una piazza che ti può regalare delle stagioni o delle mezze stagioni come quella che abbiamo visto, anche innovative, o comunque anche riciclandoti dei giocatori che sembrano persi al grande calcio e che invece in Sardegna trovano una trovarsi. Ecco, sì. Nainggolan, per esempio, comunque sia qualunque fosse il punto a cui sarebbe finita la squadra, ha fatto un campionato straordinario, e non dimentichiamoci che anche lui è stato mandato via non una ma due volte, perché anche da Roma. Allora la cosa che mi colpisce molto è che quella squadra si alimentò un po', quella del 70, dei sapori del tempo, no? il 69-70 è un biennio pazzesco, in Italia arriva i diritti, lo statuto dei lavoratori, finisce la grande stagione del boom, c'è le assicurazioni obbligatorie, non tutti sanno che uno dei giocatori del Cagliari, Greatti, divenne, deve la sua fortuna al fatto che fondò una società di assicurazioni, Greatti Assicurazioni, e poi praticamente assicurò mezza Sardegna e un pezzo d'Italia. Cioè è un anno in cui l'Italia diventa grande, e però rispetto al calcio, quello era un calcio di grandi caserme, era un calcio di ritiri obbligati, di cartellini in cui venivi venduto e non sapevi neanche dove ti mandavano, no? E improvvisamente arrivi in Sardegna, trovi questo mister geniale che conosce le belle lettere e Scopigno, che ti dice: guarda, tu devi essere responsabile, poi il ritiro non c'è, poi ci alleniamo il pomeriggio perché Riva preferisce così, se vuoi andare a funghi vai a funghi, però mi interessa che tu sia responsabile. È una cosa, Luchino, pazzesca. Ti chiedo, sì, un istante di pazienza, conosci bene questo palinsesto, abbiamo il traffico, poi vorrei parlare con te, con voi, Giovanni e Pierluigi, di un altro coito interrotto, che è quello dell'accessione di un'altra squadra che vicino al cuore ti sta, cioè la Roma. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Perché c'è quell'altra squadra che, di cui Luca Tedesa è simpatizzante, che vive una situazione difficile, strana. Vabbè, dire che vive una situazione strana, insomma, può fare la fotografia di tutti noi, ragazzi. Vale per tutti. Vale per tutti. Però praticamente c'è tutto. Abbiamo provato a informarci e nei prossimi giorni ne parleremo. Voi, Giovanni, tu che news hai sulla cessione alla Roma? Che per il momento si è fermato tutto, ma del resto era anche abbastanza intuitivo, perché quello che sta succedendo cambia i valori. Noi abbiamo letto nelle scorse settimane chi ha fatto le stime di un calo del 30% nel valore dei cartellini dei giocatori, abbiamo parlato per mezz'ora con Cellino di quello che economico del coronavirus sui bilanci dei club di Serie A, e quindi era assolutamente intuitivo che chi sta pensando di entrare investendo centinaia di milioni di euro si fermasse per ricominciare a trattare su delle basi diverse. Io credo che la storia di Pallotta a Roma sia destinata a finire comunque, non è successo in questa primavera, succederà tra qualche mese, basi differenti, però poi bisogna anche capire, non tanto limitandosi a va via Pallotta, arriva Friedkin, ma che cosa ci lascia in eredità tutta questa situazione, perché è vero che il calcio non deve prendere soldi dallo Stato e tutto quello che ci ha raccontato Cellino, però ad esempio io trovo che se anche solo ci lasciasse in eredità un cambiamento di approccio a questi imprenditori di fare i propri stadi, già avremmo comunque limitato i danni. Abbiamo parlato con Commisso e vi ricordate che cosa ci ha risposto? Vedremo che cosa succede a Roma, vedremo che cosa succede a Milano. Il problema è che c'è il rischio che si esca solo impoveriti, senza nulla su cui poi aggrapparsi per ripartire. Sì, è chiaro, Piero, abbiamo dimmi, storia insegna, no, che vogliono tutti costruire gli stadi, ma poi non ci riescono. No, siamo di fronte a una delle situazioni più paradossali della storia, nel senso che appunto siamo in una situazione di emergenza, lo sappiamo, per il mondo, che impatta proprio nel momento in cui la cessione sembrava un passo, insomma, credo che sia veramente oggettivo in questo senso, in questo caso, l'elemento della sorpresa e dell'eccezionalità, nel senso che da quello che mi risulta era tutto fatto, insomma, che la due diligence stava procedendo in maniera molto tranquilla. È giusto come dice Capuano, cioè qui adesso c'è una revisione, ma questo vale per tutto, può valere per il mercato immobiliare, può valere per gli stipendi, cioè nessuno sa che cosa succederà da qui a sei mesi, da qui a un anno, e quindi è chiaro che il mondo del calcio non fa eccezione, e anche proprio banalmente tutti i valori economici, e quindi il valore di un asset come la società di calcio, devono essere rivisti, quindi è veramente una vicenda surreale che arriva in un momento surreale, quindi elevata al cubo. D'altra parte, Luca, si tratta anche di programmare in questa situazione la prossima stagione Pallotta ha detto vabbè, tanto per cominciare sottoscrivo aumento di capitale, taglio gli ingaggi, però è quello che insomma stava vendendo un prodotto, stava battendo lo scontrino e il cliente dice no, aspetta un attimo, mi ho il gatto sul fuoco in questo caso. Sì, sai, qui bisogna essere un po' non diplomatici. E la notizia di queste ore, la battelanza, è che il principe saudita Bin Salman si compra Newcastle, no? Cioè, quindi è vero che la crisi è un disastro, tutte le cose che dice Pierre, anche noi non sapremo chi pagherà i nostri stipendi domani, però una cosa è certa: il corona, l'onda della crisi economica indotta dal corona, colpisce chi già aveva dei conti traballanti, le società con forti esposizioni di debito, le società con squilibrio nel parco ingaggi. E quindi perché la Roma si svaluta così? Si svaluta perché in questi anni era già da tre anni, e ne abbiamo parlato tante volte qui, con la testa sul ceppo dei bilanci. Quindi non è uguale per tutti, non è la peste, non è il colera, è una sorta di maledizione che però si accanisce su chi già aveva gli stendri nell'armadio. È chiaro? Sì, siamo d'accordo, sì, su questo? Sì, sì. Al punto che forse alcune grandi squadre saranno più svantaggiate rispetto ad alcune piccole. Mi diceva un direttore sportivo, dice quest'anno sarà una gara, ci sarà solo il baratto, non gireranno soldi. E anche questo l'avete raccontato, e la gara sarà a mi prendi tu questo, perché tutti i monti ingaggi che per esempio sono stati spostati con prestiti fuori dall'Italia adesso tornano. Quindi questo è il problema delle squadre grandi ma non di eccellenza e non in sicurezza, che è come la Roma, ma non so, l'Inter forse avrà dei problemi altrettanto grossi, che perdono una voce cospicua degli incassi stadio, ballano sui diritti e avevano già tante magagne nascoste sotto il tappeto. Però appunto, siccome questo, sono d'accordissimo con quello che dice Luca, però siccome questo shock è veramente simmetrico ed è trasversale a tutti gli aspetti dell'economia, non è escluso che possano nascere anche delle opportunità. Cioè, è evidente che gli stipendi dei calciatori, i valori degli asset delle società di calcio possono abbassarsi rispetto al passato, questo è indiscutibile, ma anche le altre opportunità di investimento possono avere delle incognite. Quindi magari il calcio potrebbe diventare addirittura un settore nel quale da qui a qualche mese qualcuno andrà a investire, semplicemente perché il calcio magari si svaluta meno di altre cose, magari si svaluta meno del cinema, si svaluta meno del petrolio, tanto per tornare a quello che ci diceva la Rosciani nell'aggiornamento delle 14:30. C'è una fase di tale enorme incertezza che sicuramente, come tutte le situazioni di crisi, potrebbe portare anche a delle opportunità e anche a delle scommesse. Quindi il calcio non è detto che faccia eccezione da questo punto di vista. È chiaro che nello specifico di una vicenda che sembrava quella della Roma già fatta, finita, conclusa, insomma è un bel problema. Io continuo a pensare che non si possono fare i conti prima di capire se arriveranno denari delle televisioni in caso di chiusura della stagione o no, perché non mi sembra una cosa con un dettaglio così irrilevante. Giovanni, ne abbiamo parlato molte volte. No, ma noi adesso ci stiamo anche abituando a dire che giocare a porte chiuse per tanti mesi in fondo è il male minore, e lo è se si deve ripartire. Dopodiché dovremo anche fare i conti. Per esempio, grandi club che oramai hanno introiti importanti anche se non hanno lo stadio di proprietà. Io penso ad esempio a Inter e Milan, nelle politiche che hanno fatto su San Siro, che è quasi sempre pieno, e sono decine di milioni di euro che verranno meno, io credo, anche se si ripartirà anche l'anno prossimo, perché ci sarà una lunga fase anche nel prossimo autunno. Si giocherà o a porte chiuse o con delle fortissime limitazioni. Io credo che prima di immaginare che il calcio possa tornare ad avere delle leve di crescita si debba attendere più di una stagione. È chiaro che il calcio italiano, che dal punto di vista infrastrutturale è dietro di almeno un decennio, se non un ventennio, rispetto al resto d'Europa, sempre quella possibilità lì di essere attrattivo. Cioè, io vengo perché so che facendo degli investimenti posso creare qualcosa di nuovo, posso creare valore e posso guadagnarci. Il problema è che le esperienze recenti, Roma, in parte Milano, Firenze, ci ha raccontato Commisso e Gio Barone in questi mesi, in queste settimane, ci dicono che al di là di una legge che sta facilitare, poi si è sempre persi nel vicolo cieco della burocrazia. Questa roba qui va spazzata, con o senza coronavirus. Sì, no, non credo che possa bastare per nemmeno il coronavirus per spazzare quanto tu dici. Vabbè ragazzi, vi saluto, ringrazio Luca Terese, con cui è sempre un piacere parlare. Ciao, ciao Luchino. Ciao, ciao. A molto presto. La notizia in 10 secondi per chiudere. Sì. La Juve ha comunicato che Rugani e Matuidi sono stati dichiarati guariti dal coronavirus. Hanno fatto i due tamponi, sono negativi. Dybala attende l'esito. Bene, chiudiamo con una splendida notizia. E chiudiamo, l'ha fatto Pierluigi doverosamente in apertura di trasmissione, ricordando un collega di grande eleganza. Io mi sono molto stufato in questo periodo davvero bastardo di parlare di queste cose, anche per questioni che non sono legate alla stretta attualità, perché Franco Lauro non è morto per il coronavirus, però ieri ci ha salutati, lo ricordiamo così. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. È la degna chiusura, c'è una stella nel cielo, la stella dell'Italia, campione d'Europa, grazie a tutti voi, da Franco Lauro l'augurio di una buona serata, e la linea può tornare a Roma.